Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Lo spettacolo Neve di Carta, liberamente ispirato dal libro Ammalò di testa, storie dal manicomio di Teramo, di Anna Carla Valeriano. Drammaturgia Letizia Russo, con Elisa Di Eusanio e Andrea Lolli. Regia Elisa Di Eusanio e Daniele Muratore. Mamma, che freddo adesso. Tanto freddo. È che il sole se n'è andato. E me ne andavo a dormire pure io, se potevo. Sul letto, se potevo. Beata alla luna che se ne sta lassù. Beata a te, luna. Ma soprattutto perché non c'hai piedi. Ma so che c'è il piede a me. E tu invece te ne sei bella muta lassù, tonda. Sta grande testa, senza altro che occhi. Le orecchie non lo so se ce l'ha, non lo so se mi senti quando io ti parlo. È un po' strano che ti parlo, eh? E non mi dici né sì né no. Il sole se n'è andato, e io ho già fatto 40.000 chilometri. Vabbè, 40.000 magari no. 20 però sì, dei 22 che devo fare. 10 anni fa, assieme a Gemma, abbiamo fatto questa stessa strada. Siamo partiti da casa, siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Io poi sono tornato indietro da solo e l'ho lasciata là, davanti a quel palazzo, con la porta che sembrava una bocca, spalancata, e le finestre, occhi sbarrati. Ma sa che strillava Gemma? Io la voce non me la ricordo più. Quanti curano? Gli dicevo. Manicomio è una parola che significa ripulire l'anima. Ci leva le rami secchi dall'anima, ripeteva, e poi te le torni a casa, sana, felice, ma come quando ti ho conosciuto. Ma sa che strillava a Gemma mentre la portavano dentro due uomini. E beh, io li vedevo, rami secchi, anima ripulire, nel frattempo mi giravo e ne tornavo da dove ero venuto. E poi sono passate 10 anni, la notte è scesa, e la strada ancora non l'ho finita. Ma sto facendo vecchia, eh. Eppure i vecchi non hanno paura del buio. No, no, no, no, no. È che è tutto diverso quando ci sta il sole e si vede tutto. Quando c'è il sole, tutto va bene, niente fa paura. Niente! Ma nemmeno le cose più strane. Come quella che mi è successa questa mattina, presto. Che stavo fuori, fumavo e pensavo, adesso la paura. Perché quando arriva ottobre, gli ulivi che si muovono al vento non mi salutano come fanno di solito, no, no, mi chiamano, vieni qua Bernardino, mi ordinano, è ora di levare le olive Bernardino, è ora di faticare Bernardino, fumavo, pensavo, sì, adesso lavoro, è giusto il tempo di finire la sigaretta, che mi bruci il polmone, fa anche girare la testa, giusto il tempo di finirla. E poi salirò sul primo albero che si lascia muovere dal vento e mi chiama come la puttana sulla strada che porta a sud. E quella, l'ultimo sabato di tutti i mesi, mi vede da lontano, agita la mano, come fa? L'hai saputo finalmente se sei vedovo oppure no? E io non le rispondo. Io nel frattempo la spoglio. Finita la sigaretta, io pensavo questa mattina, io salirò sul primo albero che agita le braccia come la puntata del sabato e lavorerò. Io toglierò tutte quante le olive, le raccoglierò e alla fine di un lungo lavoro io ci avrò l'olio per tutto l'anno che viene. E c'era il sole questa mattina, andava tutto bene, non mi faceva paura niente. E non lo sapevo che non avrei lavorato. Sei sbiadita di giorno l'uno, lo sai. E quindi non lo so, salisse pure tu, che a metà della mia sigaretta, col sole in cielo, ma senza manco una nuvola. ha cominciato a nevicare. E il primo fiocco che mi è passato davanti, pare con una piuma, una piccolina, leggera, disegnava i sorrisi che mi discendere verso la terra. E poi è passato il secondo, poi è passato il terzo, e poi 20, poi tutto quanto assieme. E nel tempo che ci metto un uomo ad alzare la testa, io ho capito che nevicava, ma senza manco una nuvola in cielo. E non era bianca quella neve, lo sai, era grigia. E i fiocchi non cascavano, no, come fa l'inverno la neve. Ciascuno di loro disegnava i sorrisi più ampi, più stretti, prima di scendere verso la terra. Ma qualcuno era grande, qualcuno era piccolo. Che strana neve, gli pensavo. Eppure gli univi non mi chiamavano più. Ma guardavano, zitti, restavano immobili. E li guardavo. E lo guardava la neve. Era bella la neve, pure se era grigia. Ma lì quel bello che mi chiamavo più. Ma forse un sogno, io pensavo. E allora vuol dire che sta ancora tu me? Svegliati, pensavo. Apri gli occhi e vai a lavorare. E gli aprivo gli occhi, li spalancavo, poi li chiudevo, poi li aprivo. Come svegliavo? Tutto rimaneva con me. La sigaretta aspetta a metà. Gli ulivi, immobili, zitti. Se l'hai visto, me lo dovresti dire, pure se sei muto, perché io non lo so raccontare. Tu a Gemma, stava scritto, in basso a destra del foglio, ma proprio vicino al bordo bruciato. Tu a Gemma, la mia Gemma, anche perché, caro Bernardino, stava scritto in alto a sinistra del foglio. Caro Bernardino, caro Bernardino, caro. Caro Bernardino, questa è la lettera numero 5747 che ti mando da quando ho cominciato a tenere il conto. Tu mai mi rispondi? E io continuo a scriverti, per dispetto. Non lo so se è un dispetto che ti faccia a te o un dispetto che mi faccia a me. Qua dentro tutto è alla rovescia, eh? La notte si sta svegli e il giorno si dorme, pure con gli occhi aperti. certi piangono quando bisognerebbe ridere, e certi ridono quando sarebbe meno pericoloso starsi zitti. Certi si nascondono se gli fai ciao con la mano, e certi in gista verso che ti chiamano col nome che hai. Tutto è la rovescia qua dentro, nel posto dove si ripuliscono le anime. E quindi non lo so se scriverti è un dispetto che ti faccio a te o un dispetto che mi faccio a me. Eppure sto bene, mo, lo sai, Bernardino? Sto bene, perché questa, io lo giuro, è l'ultima lettera che io ti scrivo. È ottobre, e se sei ancora lo stesso di quando vivevamo insieme, te ne stai sopra i nostri alberi, eh? I nostri, i tuoi, sopra i tuoi alberi, a strappare le foglie, a togliere le olive, con un piede sopra l'ultimo gradino della scala e quell'altro sopra il tronco, così. In quella posa che io, finché vivevamo insieme, ti guardavo dalla porta di casa e mi sembrava che ci facevi l'amore con quegli alberi che prima erano i nostri e mo sono soltanto i tuoi. Ti guardavo, aspettavo che calava la sera per diventare io quell'albero di ulivo e sentirmi addosso quelle mani e toccare quelle belle braccia. È ottobre, per la decima volta da quando mi hai portato qua, ed è l'ultima volta che io ti scrivo per dirti: vieni a prendere. Guarda come si leggono bene le parole su questo foglio che è l'ultimo che ti mando. E lo sai perché? Perché l'inchiostro scivola sulla carta, subito si asciuga. E lo sai perché? Perché oggi che è ottobre, per la decima volta da quando mi hai portato qua, è la prima volta che a me dagli occhi non mi piove manco mezza lacrima. Vieni, mo, vienimi a prendere, Bernardino mio. Lo scrivo e non ci credo, perché ormai lo so come non l'ho saputo mai in queste 5.747 lettere che tu non verrai. Vieni, mo, vienimi a prendere. Lo scrivo e non ci credo più. Ho fatto un sogno oggi a mezzogiorno mentre dormivo con gli occhi aperti qua nel mondo alla rovescia che scambia il giorno con la notte. Ho fatto un sogno che quando è finito ho aperto e chiuso gli occhi 2 o 3 volte. Ho capito tutto, tutto. Morirò qui dentro. Quando ancora non lo so. Che sto bene, anche nel corpo. Cucio, lavo, stiro, come sempre da quando sono qua. Non sono debole, non sono stanca, non ho piaghe addosso, non ho i cancri dentro. Oh, sto bene. Io e il mio corpo stiamo bene. Quindi non lo so quando è che succederà, quando è che morirò, ma morirò qui dentro, senza aver avuto mai da te, Bernardì, né una lettera e né la grazia di vederti qui. Si è messa a piangere Adelina prima, quando gli ho raccontato il sogno che ho fatto e quello che ho capito. A piangere, a graffiarsi le mani così forte con quelle unghie che un poco di sangue se ne è cascato per terra. Allora subito il topolino che ci abbiamo nella stanza se l'è andata a bere, lo sangue. Piagneva Adelina, ma quella è matta, eh? E piagne per le cose che la dovrebbero fare ridere. Io invece, che ormai sto bene, io grazie a quello che ho capito. Tu non verrai e io morirò qui dentro insieme a tutti quelli che come me sono stati messi qua con la promessa di avere un giorno un'anima ripulita. Ma ripulita da che cosa qua? E che si trovano qua nel mondo alla rovescia. Senti, solo il freddo qua dentro è uguale al freddo fuori? Perché adesso che è ottobre, ma anche quando è marzo, quando è agosto, oddio, qua dentro è un eterno mese di gennaio, dove tutto è gelo, non ci sta niente che ti scaldi almeno un poco. Ecco, questa è l'unica cosa che mi dà fastidio a me. L'idea di morire qua senza aver sentito mai, per una volta ancora, il caldo, oddio, che bella calda, quello che fa luglio, il caldo. Ci sposeremo, mi diceva, quando ci eravamo appena conosciuti. Perché i piedi, Bernardì, ti si piacciono uguale uguale a me. E questo vuol dire che un poco ci assomigliamo. È ottobre, per la decima volta da quando mi hai portato qua. E chissà in quante altre cose, se avessimo vissuto insieme tutti questi anni, ci saremmo assomigliati, in quanti disassomigliati. Vienimi a prendere, Bernardino. Te lo scrivo per l'ultima volta, sapendo finalmente che non verrai. Tua Gemma! Tua Gemma? La mia Gemma, Luna! La mia Gemma! E se avesse quello che mi è successo nei polmoni, quando io ho letto il suo nome, il mio nome, su questo foglio mezzo bruciato, portato dal vento insieme a tanti altri, che continuavano a disegnare i sorrisi nell'aria, quindi di scendere verso il mio campo. E allora hai visto pure quello che è successo dopo. Gli ulivi ancora immobili e zitti, ma guardavano mentre io mi giravo. Prima la testa, poi il tronco, poi le gambe. Alla fine i piedi. Davanti a me una strada di neve, ma fatta da caldo, che arrivava fino all'orizzonte. Non ci andare, mi dicevano gli ulivi, non ci andare, ma resta qua a lavorare, a vivere, a dimenticare la tua Gemma ogni giorno di più. Non ci andare, lo dicevano gli ulivi, ma erano i miei che mi cavavano. Contro al vento che ti portava la neve di carta, io nel giro di pochi minuti non mi sentivo più. Non ci credo che mi vieni a prendere. Ha scritto. Era l'ultima lettera, giura. Ma non ci credevo neanche 10 anni fa. Guarda, la notte prima di partire, io gli dicevo, stammi lontano, non mi devi toccare. Tu sei pazza, ha ragione mia madre. Tu hai l'anima piena di navicetti che vanno dagli altri. Secchi, come le mie viscere, che mi chiamano, mi prendono, e si prendono tutto quanto di me, e non mi hanno mai dato un figlio in cambio. Tu sei pazza, ha ragione mia madre. Ma è per questo che te, domani, cammineremo per tutto il tempo che ci vuole per fare 20 chilometri, più due, più qualche cosa. Quando saremo arrivati alla casa che cura le anime, tu entrerai e io ti darò indietro da solo. E non mi credeva Gemma. Ma per tutti i viaggi non mi credeva. Parlava, rideva. E ogni tanto mi baciava. Ma come se fosse una lunga passeggiata di due che si amano da poco. Beh, finite però. Davanti a quel palazzo con la bocca al posto della porta e le finestre uguali agli occhi sbarrati. Bravo, ha detto mia madre quando sono tornato a casa. Finalmente hai rimediato lo sbaglio che hai fatto quando ti sei sposato. E poi speriamo che la cura del bene, però. bene, bene. Ma non è una cosa che te riguarda. E togliete le lacrime dagli occhi. Ma fai un po'. Perché le sono viste quello che facevano. Ma quella che lei faceva a te. Che non ti ha mai dato un figlio in casa. Non te dovevo sposare. Hai sbagliato. Ma adesso per fortuna hai rimediato. Dormo, domani lavori e ti dimentichi di Gemma. È strano, lui, lo sai perché? Tutti quanti di me pensano, dicono che io sono bravo a ubbidire. Ma pure io lo pensavo di me. Io lo dicevo fino a questa mattina, fino alla strada di rive fatta da carta, quando gli alberi di ulivo mi dicevano non partire, per i piedi che mi camminavano lontano da casa, lontano dal bravo di mia madre di 10 anni fa. Allora, io non lo so pure se sono stato io tutto intero a disubbidire o i piedi che mi hanno cominciato a camminare. I piedi. E chi se me le piacere sempre, ma mi dispetto. Ma pure quando la ripete? Ho camminato una. Io per 4 chilometri ho camminato senza parlare incontro alla strada di neve fatta da carta. E ancora di nuovo, come uno schiaffo a un bambino distratto, sulla guancia, sinistra stavolta, un altro foglio va parlato per lei. Caro Bernardino, è vicina alla data. Caro Bernardino, caro Bernardino, 503 volte caro, come il numero di lettere che ti ho mandato da quando ho cominciato a tenere il conto. 1, 2, 3, 4, 5. Mi fa bene contare, perché solo chi è sano conosce i numeri e l'ordine in cui vanno messi. Allora io conto, mo, tutto quello che posso. Conto i giorni e le ore. Conto quanta gente, uomini, donne, entrano qua nel mondo alla rovescia, per quanto tempo ci restano, per quanto tempo restano vivi. E conto fino a 15, certe volte fino a 20, addirittura a 30. Quando arriva proprio l'infermiere, che è la persona più infelice del mondo, e mi mette una mano alla gola, perché dice che sto troppo arrepiata. La prima volta pensavo di morire, poi ho capito che bastava contare, ma solo dentro al pensiero, guardarlo negli occhi e contare. E in quei 15-20, addirittura 30 secondi, lui diventa un po' meno infelice, perché ho convinto di essere lui ad aiutarmi e non il contrario. Oddio, povero me! Solo tu e un'altra persona che si chiama Adelina conoscete il segreto che ci abbiamo io e i numeri. Ma forse né tu, che a malapena sai leggere, e né Adelina, che è arrivata qua da un mese, ossia 30 giorni contati da me, uno per uno, sapete che farvene. Oh, è giovane Adelina! Come ero giovane io, quando io e te ci siamo sposate! È arrivata qua, che il sole stava già calato, lo marito è morto da 1 anno e 3 mesi. L'upatra l'ha portata fino a qua dentro, con l'upatra alzata, per la vergogna da farsi vedere questa. Pure con un dottore, pure con broglio, l'upatra parlava senza mai scoprirsi la faccia, mentre Adelina guardava il dottore così lo guardava, con la faccia del ladro catturato al primo furto. Questa qua, diceva l'upatra al dottore, questa va in giro la notte nei boschi e canta e urula come le bestie, si strappa i vestiti di dosso e se vede un uomo gli piglia la mano, se la mette in mezzo alle cosce. Mi capite che ha detto l'upatra? è l'espressione del ladro che nasconde ancora in tasca il refurtivo. Adelina, brogliò la presa, la mano nella parte alta del braccio, e l'ha portata nel letto vuoto accanto al mio, dove la vecchia, che si ficcava gli aghi nelle mani e chiamava il nome del cugino, stava morta, la vecchia, da 28 ore. Non l'ho visto Adelina, che lo padre, appena fuori da qua, se l'ha calata lo padre, ha respirata, occhi chiusi, felice di avere un problema di meno. Manco io l'ho visto, ma l'ho immaginato così forte che senz'altro è andata così. Pure tu hai respirato, Bernardino, quando mi hai lasciato qua nel mondo alla rovescia? Appena fuori dalla porta, mentre io ti chiamavo e richiamavo, hai respirato pure tu? Certe volte, quando gli occhi di tutti qua dormono, io mi ricordo di come respiravi nella nostra casa nel buio, la notte. Io ti venivo vicino e tu lo guardavi. Avevi paura, pure se non lo dicevi, di me. E respiravi, prima piano, poi forte, forte, forte. Eppure io insieme a te. Certe volte, quando gli occhi di tutti qua dormono pure da aperti, io mi ricordo dei nostri segreti, del nostro respiro. E una mano mi scivola giù. E se Adelina mi guarda, io non mi fermo. Conta, Adelina, gli dico, quando mi guarda. Contamo, Adelina, conta. Conta forte, Adelina. Continua, continua a guardarmi, che lo vedo che negli occhi ti passano le volte di quando correvi nuda nei boschi alla ricerca di un uomo che ti aprisse di cosce. Se Adelina mi guarda, io non mi fermo. Smetto soltanto se la mano di broglio mi stringe la gola. Dopo 503 lettere non ho ancora notizie di te. Vienimi a prendere, portami a casa, fammi sentire come respiri la notte quando ti vengo vicino. Tua, Gemma. Ma tu lo sapevi già, vero lui? E ci vedevi di notte, bella mia Gemma. E ci guardavo pure tu come fa Adelina e come ha fatto mia madre. Una volta, non qualche cosa di più. Ma quando lasciavamo la porta con uno spiraglio, ma perché non lo sapevamo di non essere soli? State zitta! Ho detto a Gemma quella volta che i suoi occhi si sono ficcati dentro a quelli di mia madre, mentre noi stavamo ancora allacciati. State zitta, non dire niente! Smetti, non urlare, non parlare, non gridare, resta qua, ma morte! Smetti, le fai, che andiamo per la pazza! Stante zitta, lei niente, stante ferma, lei controllava! E allora ha smesso solamente quando hanno messo una mano alla gola! Bruciata portata dal vento. Ma chissà che pensavo quell'uomo che ho incontrato. Io fermo, lui pure. E intorno a lui, disordinate, stanche, se ne trascinavano sei pecore, ma magre! Proprio come a lui. Dove vai? M'ha detto. Di là ho risposto. Alla fine di questa strada di neve fatta da carta. E che c'è sta alla fine, tu lo sai. Ci sta la mia Gemma, che dopo 10 anni, pure se la non ci crede, la vado a prendere e la porto via di nuovo con me. Ma io mi pensavo che era ricominciata la guerra, alla fine di questa strada di neve fatta da carta. E in mano pure lui teneva un foglio mezzo bruciato. Sai leggere tu? Dica sì, e mi prendo quel foglio e gli chiedo come si chiama e leggo. Caro. Il suo nome e la data di 3 anni fa. Solo tu puoi porre termine a questo stato di cose. Vieni a salvarmi subito o io, tra 10 giorni precisi, mi ammazzo con le mie mani oppure con la fame. Tua moglie Isabella. Ma non gli dica che era proprio per lui, no, no, no. Io gli dico che era una lista di conti, ma fatta da chissà chi che la vuoi dare a vendere, che se la porti, dimenticata. Ma lui a bassa voce dice il nome, Isabella. Poi prende il foglio, la cartoccia, lo dà da mangiare alla pecora, ma vieni, ma deve cominciare a camminare. Luna, è rimasto tutto quanto 10 anni fa. La terra, le rocce, un corso di acqua ogni tanto, tutto uguale, penso. È per chi cammina senza parlare, io vado avanti e continuo a seguire la strada di neve fatta da carta. Ma dopo 10 chilometri io ho sete, fame, ma soprattutto sete. Ma non voglio fermare perché ho paura che la strada di carta scompaia. E ho paura di perdere. Ma è più forte di me. Quando io sento il rumore dell'acqua di un piccolo fiume che mi scorre vicino, i piedi, che da questa mattina hanno deciso per me, si girano e vanno a portare a bere. È fredda l'acqua. Ma così fredda che senti i denti cadere. E bevo, bevo, bevo, bevo. Io bevo con gli occhi chiusi. Quando li riapro, mi la vede che galleggia, come scorre veloce, si vede, proprio vicino a me. Parla per me, è vicino alla nave. Qua nessuno lo dice, ma io l'ho capito. Pure il mondo fuori è diventato la rovescia, Nessuno lo dice, né i medici né Broglio, ma io l'ho capito. Che mentre ti scrivo questa lettera, che è la numero 2629, fuori, da qualche parte, è scoppiata la guerra, Fuori, lontano da qui, forse a nord, sulle montagne. Nessuno lo dice, ma io lo so, pure se non arriva il rumore delle esplosioni e non si sentono i soldati che marciano, io lo so, perché ogni giorno conto io, 1, 2, 3, 7, 20 uomini, donne che entrano qua con gli occhi già morti. Adelina tutti riguarda gli uomini, giovani, vecchi, non fa differenza quella, A tutti si avvicina, Adelina, ma quelli scappano, la prendono a calci, gli sputano. Poi si mettono da soli in qualche angolo e piangono. Uno l'altro giorno le ha detto, state attenta, che il diavolo ce l'ha sempre avuta con noi poveri, che non ci ha dato il regalo mai niente, e mo ci ha mandato a combattere la guerra, la patria. E uno deve sperare di morirci sul fronte anziché tornare a casa e morire di fame. Sei partito pure tu per la guerra, è per quello che non mi rispondi. Certe volte un po' lo spero di vedere tra quelli masticati dal fronte, tra quei calcinacci, le divise strappate che rinchiudono qua insieme a noi. Io spero di vedere pure a te. E tu invece non arrivi. E manca la guerra hai fatta, mi sa. E se non l'hai fatta non capisco proprio che cos'altro hai da fare di così importante che non mi puoi venire a riprendere. Faccio tutto quello che vogliono i medici io, Lavo, stiro, cucio. E se parlo è solo perché me lo chiedono, E non urlo io, non sbatto il cranio contro le pareti, sorrido. faccia mi figuro certe scene in cui qualcuno ti chiede di me e tu gli dici non lo so, non me lo ricordo, ma chi è questa Gemma che avevo sposato? Spero che soffri un po', invece. Ci sta un vecchio qua da 16 giorni che è triste dal giorno in cui il figlio è partito per andare a combattere in guerra, eh? Questo non mangia, non parla, ripete il nome del figlio, e dice che è triste pure per gli altri, per tutti i soldati feriti, che è per questo, per la tristezza, che quando stava a casa nessuno riusciva a fare più niente, eh? Manca a camminare, manca a dormire, la notte lo legano a letto, perché se ti fai ammazzare al fronte va bene, ma se ti lasci ammazzare dalla tristezza hanno deciso che no, non va bene. E mentre il vecchio legato, tutto legato, chiama la pace, chiama il figlio, di nascosto, zitta zitta, quanta quanta, gli va vicino Eugenia. Pure il fratello è partito per andare a combattere in guerra. E un giorno l'unico, al suo paese che sa leggere, gli ha detto che sulla cartolina, arrivata da 1 o 2 ore, ci stava scritto il nome del fratello e ci stava scritto deceduto a Caporetto. Euge, da quel giorno non vuoi altro che il vino, eh? Eugenia! Tranne la notte, quando si mette vicino al vecchio legato e chiamano la pace e chiamano ognuno il proprio soldato, sembra che pensano in fondo la stessa persona. Soffrono. Soffri tu, Bernardì? Mi pensi come Eugenio e quel vecchio pensano ai loro ragazzi? 2629 volte che ti scrivo e non una risposta da te. Vienimi a prendere. Se un po' soffri, hai sofferto pure tu in questi anni nel non vedermi più. Vienimi a prendere. E io ti prometto che quelle figure che mi si fanno nella testa di te, che mi hai dimenticato, le cancello, in un secondo le cancello. Tutto torna come prima. Quando eravamo io e te, i campi, il lavoro e soprattutto le notti. E se invece la guerra magari l'hai fatta e hai perso una gamba, magari non so, ed è per questo che non puoi camminare. Spero che soffri più al pensiero di non vedere più a me che alla vista della tua gamba mozzata. E se invece la guerra magari l'hai fatta e sei morto sul fronte, mandami il tuo spettro, anche solo per un minuto. Tanti fantasmi qua li vedono e sono certo meno soli di me. Ma tu non sei morta, Bernardi, tu sei vivo, io lo so, e pure io. Vienimi a prendere, portami via, tua Gemma! E non ho fatto la guerra, io no. Io sono vivo. E quindi nessuno mi piange. Nessuno si ricorda di me, ma nemmeno mia madre è morta serena, perché la mia gente è lontana. Ma questo lo sai pure tu, Luna? Tu di notte sempre mi guardi. Tu c'eri 3 notti fa quando mia madre ha pagato il suo ultimo respiro al tempo. E le gambe, ma pure questo lo sa, io ce l'ho, tutte e due. Ma sono adesso che sono passate 10 anni in piedi, ma da disubbidita, da cominciare a seguire chilometro dopo chilometro la strada da foglie bruciate. Ma dopo io ho bevuto a fiume, come soffre, padre? Io ricomincio a camminare. Eppure se il sole cominciava a essere basso e Luna, fanno paura le ombre degli alberi quando si allungano, perché te tocca i piedi, devi andare addosso, sembra magro, sembra fruste, le voglio qualche cosa da te. Allora io camminavo senza pensare, senza sentire il rumore che faceva contro le costole, il cuore che voleva scappare. Guarda la strada che ti aveva fatto da carta, ti pensavo. Non ti fermare, non ti fermare manco poco, vai avanti. Sono ombre, non devi avere paura. Non ti fermare, non ti fermare, non ti fermare, non ti fermare, non ti fermare. Non mi voleva fermare, non giù. Ho sentito un rumore. Come di un sasso lanciato contro una testa. E dopo il rumore io ho sentito il dolore, perché il sasso era un sasso, la testa era la mia. Io ero un albero, fissavano, ficcati dentro la testa, appoggiata al corpo di una bambina scheletrica, sporca di nero. Non ci aveva le scarpe. Urlavo. Non ci torno io là! Veniti da parte di sassi. Io fermo, immobile, non ne sono andato vicino. Era amico. C'aveva il fiatone. Non ci torno io là! E neanche alla casa dove sono nata! Che se nessuno mi vuole, io non voglio nessuno! Allora me ne vado coi lupi! E mi tirava altri sassi! Coi lupi! Mi colpiva la spalla! Coi lupi, coi lupi! Braccio, la gamba! Coi lupi, capito? E che mi sbranino pure, se neanche loro mi vogliono! E alla fine le hanno ceduto le gambe. Va bene! Le ho detto. E poi sono rimasto zitto. Ma io volevo rimanere pure fermo. E invece di nuovo, i piedi hanno deciso per me. E dopo 20 passi che sembravano 100, hanno portato vicino a lei. E le ginocchia pure si sono piegate. Hanno deciso nonostante a me. Si sono piegate. Come quando da bambino ogni tanto quell'Ernesto erano più cattivo. Beh, quello col bastone colpiva da dietro, non vedi dal ginocchio. Io cascavo per terra come una camicia fissata male al filo dei panni. E dopo i piedi che mi hanno camminato fino a lei, dopo le ginocchia che mi hanno piegato fino a lei, pure le mani hanno deciso per me. E hanno cominciato a poliziare il nero che copriva la faccia di quella bambina. Era bianca la faccia sotto a quel nero. Ma come di uno che non vede il sole da secolo. Ma ficcare gli occhi di lui dentro agli occhi. Ma bianca la bestia. Ma abbracciamo. È bruciato tutto. Ma dentro, ma io non le ho chiesto di che tutto parlavo, perché io con le mani ancora pulivo sopra il nero della sua faccia. E ma le rivedevo. Coi lupi! Lo so, lupi, lo so. Di tante cose le dovevo chiedere. Hai fame? Per esempio. Hai sete? Che ci fai nel bosco di notte? Cos'è che è bruciato? Io queste cose le dovevo chiedere, il suo nome. E l'avrei fatta, pensa. No, non l'avrei fatta, giuro. E ma non ho fatto in tempo perché quando la faccia era quasi libera dal nero, lei non sa. Ma guardate. E prima di correre via dove, gli altri si fanno più fitti. Aperta la mano destra e dal pugno sinistro ha lasciato cadere una cosa storta come una pietra, aggrovigliata. Era un foglio, pezzi bruciati. Mi sono esercitata tanto prima di scriverti e questa è la lettera numero uno che ti mando, sperando che sia pure l'ultima. Se non ti ricordi più come si fa a leggere, chiedi a qualcuno, ma senza farti scoprire da tua madre. Sono passate 6 settimane, forse più, non lo so, da quando mi hai portato qua dentro, ancora non capisco perché. Se mi volevi ammazzare, Bernardino, lo potevi fare dentro la nostra casa, dove le lame non mancano, invece di seppellirmi ancora viva, in un posto che è peggio della morte. Ti levano via le mie secche, mi hai detto! Ti ripuliscono l'anima! Ma io dopo 6 settimane ancora non ho capito quali sono questi rami secchi che mi volevi tagliare. Fa freddo! E non c'è pace neanche negli angoli più nascosti. In mezzo ai matti mi hai mandato io che matto non sono e non sai freddo! Tutti quanti qua, di giorno, di notte, come spettri camminano. E parlano di cose senza senso, si strappano i denti, si fanno ammazzare più volte per l'infermiera. muore ogni giorno a decine senza le cure necessarie perché non c'è il personale. Per ogni letto ci stanno ammassati 100 corpi come cadaveri nelle fosse comuni. Bernardì, io te lo scrivo ma non è una preghiera e spero che quando aprirai questa lettera la sentirai la mia voce, al contrario di quando mi hai portato qua. Aprirai questa carta e ti si dovranno strappare le orecchie dal cranio, spaccarti i denti, cavarti gli occhi fuori dalle orbite, se non obbedirai e non verrai a prendermi, a portarmi via di qui, subito, Bernardino mio, subito, subito, Bernardino, ma che mi hai fatto, Bernardino, per favore, che mi hai fatto, Bernardino mio, ma che mi hai fatto, Bernardino, che mi hai fatto, Bernardino? Ma mi hai lasciato solo, Luna, ma proprio adesso che la strada è finita, i piedi mi hanno smesso di camminare. Se c'eri ancora Luna, io ti dicevo, guarda, siamo arrivati alla casa del cuore le animo. Se c'eri ancora Luna, io ti dicevo, guarda, assomiglia alla faccia di quella bambina che mi tirava i sassi ai confini del bosco. Perché è tutto nero la casa del cuore le animo, come la faccia di quella bambina. E qui non c'ho le mani grandi abbastanza per togliere il nero e farla tornare bianco. Se c'eri ancora Luna, io ti chiedevo, che faccio, no? Che faccio? Eppure i piedi hanno ricominciato a disubbidire e invece di fermarsi hanno ripreso a camminare. Camminano. Camminano sotto al sole e poi morirà. In attesa che ritorna la luna con cui si parla così bene. Vediamo se è vero, come dicono tanti, che alla fine di tutte le strade esiste quella cosa che chiamano mare. Lo spettacolo Neve di Carta, liberamente ispirato dal libro Ammalò di testa, storie dal manicomio di Teramo, di Anna Carla Valeriano. Drammaturgia Letizia Russo, con Elisa Di Eusanio e Andrea Lolli. Regia Elisa Di Eusanio e Daniele Muratore. Ben trovata. Grazie, ben trovato a te. Che racconto è? Racconta il terribile spaccato sociale delle donne rinchiuse ingiustamente nei manicomi in Italia tra l'Ottocento e il Novecento, ed era una pratica, ahimè, frequentissima. Io tra l'altro sono abruzzese teramana e a Teramo c'è stato uno dei più grandi manicomi in Italia, e Anna Carla Valeriano, che è l'autrice di due libri meravigliosi sul tema, ha trovato tutte le lettere scritte a mano dalle internate nell'archivio di Stato e ha scritto questi due libri stupendi. Per cui ho deciso subito di farne un progetto teatrale e ho affidato la drammaturgia a Letizia Russo, che è tra le drammaturghe più interessanti, secondo me, che abbiamo oggi in Italia, che ha scritto una storia pazzesca, veramente incredibile, tra due contadini dell'Ottocento in Abruzzo, attraverso una storia d'amore violata dal pregiudizio, raccontiamo questo spaccato sociale. Com'è stato in fase di scrittura il rapporto con i due testi originali? Sicuramente è stato fondamentale, perché l'ispirazione dei due personaggi viene fuori proprio dalle lettere, delle internate, da tutti i racconti, dal manicomio, perché comunque c'erano anche tanti uomini, e quindi Letizia si è lasciata ispirare da alcune storie vere, accadute, e ha creato queste due figure estremamente popolari, molto molto semplici e estremamente verosimili. Come avete pensato la messa in scena? Ho lavorato per essere il più fedele possibile con il racconto e soprattutto con i sapori che questo racconto evoca, quindi l'Abruzzo, quindi la terra, l'essere contadini. Ho lavorato con una scenografa che ha realizzato una scenografia con dei materiali molto semplici, i costumi sono assolutamente evocativi, sembra quasi più un racconto cinematografico che teatrale, devo dire. Ecco perché lo spettatore si emoziona tantissimo quando vede questo lavoro, perché anche la recitazione è una recitazione estremamente verosimile, molto diretta, molto semplice, non sembra di essere a teatro, sembra più di vedere un film. E le musiche di Stefano De Angelis, lui ha creato, questo musicista abruzzese anche lui, un mix tra canti popolari e sonorità elettroniche, devo dire che fanno un basso continuo musicale estremamente coinvolgente. Rispetto alla tematica, su quali elementi avete voluto puntare l'attenzione? Ma sicuramente sul fatto che sono stati fatti appassire tanti fiori in manicomio, sono state violate delle libertà perché queste donne venivano internate per motivi futili, irrequietezze caratteriali, per infertilità, perché non volevano sposarsi, perché non erano inclini alla vita del regime, non erano utili alla prole o avevano un carattere particolarmente esuberante o ribelle, cioè qualsiasi stortura, tra virgolette, poteva essere motivo per essere internate e fatte impazzire poi di fatto in manicomio, quindi è la violazione proprio del diritto alla vita, del diritto a vivere, a essere se stessi, che oggi secondo me comunque è un tema che continua ad essere molto attuale in realtà. Avete ricavato anche dati, cifre rispetto a questi internamenti? E beh, parliamo di migliaia e migliaia di donne, perché insomma pensiamo solo al periodo storico a cavallo tra le due guerre mondiali, questa era una prassi. Poi nel ventennio fascista non ne parliamo, cioè proprio sotto il regime fascista era un internamento fuori controllo, veramente, perché era un modo anche per fare pulizia sociale, quindi parliamo di cifre altissime. Che percorso farà questo spettacolo, o ha già fatto? Noi abbiamo fatto, purtroppo poco prima del disastro pandemico, un'anteprima a Roma al Teatro Argo, e l'abbiamo fatto circuitare in Abruzzo per organizzare una tournée nazionale, ci stiamo già lavorando, e ad aprile saremo al Faber a Frascati e la stagione prossima io mi auguro di farlo girare un bel po', sì. Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? I pensieri dell'altrove, tutto attaccato, @gmail.com, o comunque visitando il teatro dell'altrove, Teatro Studio di Roma, ci sono tutte le informazioni. A presto! Grazie a te, ciao! La lettura di Per farla finita col giudizio di Dio di Antonin Artaud, interpretato da Oreste Scalzone. La recherche della fecalité. La ricerca della fecalità. Là dove si sente la merda, si sente l'essere. L'uomo avrebbe potuto benissimo non andare di corpo, non aprire la tasca anale, ma ha scelto di andare di corpo, come avrebbe scelto di vivere, invece di acconsentire a vivere morto. E che, per non cacare, avrebbe dovuto accettare di non essere, ma non ha potuto decidersi a perdere l'essere, vale a dire morire vivo. C'è nell'essere qualcosa di particolarmente allettante per l'uomo, e questo qualcosa è per l'appunto la cacca. Per esistere è sufficiente lasciarsi andare a essere. Ah, per vivere bisogna essere qualcuno, bisogna pure avere un osso, non avere paura di mostrare l'osso e rischiare di perdere la carne. L'uomo ha sempre amato più la carne che la terra di ossa, e non c'era che terra e legno di ossa, e si è dovuto guadagnare la sua carne. Non c'era che ferro e fuoco e niente merda, e l'uomo ha avuto paura di perdere la merda, o piuttosto ha desiderato la merda, e perciò ha sacrificato il sangue per avere della merda, e cioè della carne, là dove non c'era che sangue, ferraglia di ossa, e dove non c'era l'essere, ma solo da perdere la vita. Oh re, che modo toe dire de zata udari do padera cocolla. L'uomo si è è fuggito, allora le bestie lo hanno mangiato, non fu violenza, si è prestato al pasto osceno, lo ha trovato di suo gusto, ha imparato anche lui a fare la bestia e a mangiare il topo delicatamente, e da dove viene questa porcheria abietta? Dal fatto che il mondo non è ancora formato, o che l'uomo non ha che una ben misera idea del mondo e vuole mantenerla in eterno. Tutto questo perché l'uomo un bel giorno ha fissato l'idea del mondo. Due strade gli si offrivano, quella dell'infinito fuori, quella dell'infimo dentro, e ha scelto l'infimo dentro, là dove non ha che da schiacciare il topo, la lingua, l'ano o il glande, e Dio stesso ha schiacciato il movimento. Dio è essere? Se lo è merda. Se non lo è, non è. Ora non è. Ma allo stesso modo del vuoto che avanza con tutte le sue forme, di cui la rappresentazione più perfetta è la marcia di un gruppo incalcolabile di piattole. Voi siete pazzo, Monsieur Artaud! E la messa? Io rinnego il battesimo e la messa. Non esiste atto umano che a un livello erotico interiore sia più nocivo della discesa sugli altari del sedicente Gesù Cristo. È difficile credermi, e già vedo le alzate di spalle del pubblico, ma il subnominato Cristo è colui che di fronte alla piattola Dio ha consentito a vivere senza corpo, mentre un esercito di uomini discesi da una croce su cui Dio da molto tempo credeva di averli inchiodati si è rivoltato e coperto di ferro, di sangue, di fuoco e di ossa avanza insultando l'invisibile per farla finita col giudizio di Dio. Tout au bruit, le rite du soleil est noir, il rito del sole nero, e il basso, come in fondo a un pendio amato. Tout au bruit, il rito del sole nero, e il basso, come in fondo a un pendio amaro, il cuore crudelmente disperato si apre il cerchio delle sei croci, tre in basso come incastrate nella madre terra, disincastrate dalla stretta immonda della madre che smama. La terra di carbone nero è il solo luogo umido in questa fessura rocciosa. Il rito è che il nuovo sole passi per sette punti prima di scoppiare nell'orifizio della terra. E ci sono sei uomini, uno per ogni sole, ed un settimo uomo che è il sole tutto crudo, rivestito di nero e di carne rossa. Ora, questo settimo uomo è un cavallo con un uomo che lo conduce. Cavallo con un uomo che lo conduce, ma è il cavallo che è il sole e non l'uomo. Sulla lacerazione di un tamburo e di una lunga tromba, strana, i sei uomini distesi, arrotolati per terra, sorgono poco a poco come girasoli, non soli, ma suolo che gira, loti d'acqua, e ad ogni sorgere corrisponde il gong sempre più oscuro e sordo del tamburo, finché all'improvviso si vede arrivare al gran galoppo ad una velocità vertiginosa l'ultimo sole, il primo uomo, il cavaliere nero, con un uomo nudo, assolutamente nudo e vergine, su di lui, balzati in piedi, avanzano seguendo percorsi circolari e il cavallo di carne sanguinante impazzisce e caracolla senza fermarsi in vetta alla sua roccia finché i sei uomini hanno finito di circondare completamente le sei croci. Ora, il culmine del rito è infatti l'abolizione della croce. Dopo aver finito di girare, sradicano le croci dalla terra e l'uomo nudo sul cavallo mostra un immenso ferro di cavallo che ha bagnato in una ferita del suo sangue. La questione se pose di... si pone la questione di ciò che è grave è che noi sappiamo che dopo l'ordine di questo mondo ce n'è un altro. Qual è? Non lo sappiamo. Il numero e l'ordine delle supposizioni possibili in questo campo è veramente l'infinito. E che cos'è questo infinito? Non possiamo saperlo. È una parola di cui ci serviamo per indicare l'apertura della nostra coscienza verso la possibilità smisurata, instancabile, smisurata. E che cos'è la coscienza? Non possiamo saperlo. È il nulla, un nulla di cui ci serviamo per indicare quando non sappiamo qualcosa, la parte che non conosciamo, e chiamiamo allora coscienza, parte della coscienza. Ma esistono 100.000 altre parti, e allora sembra che la coscienza sia legata in noi al desiderio sessuale e alla fame, ma potrebbe benissimo non esservi legata. Si dice, si può dire, c'è chi dice che la coscienza è un appetito, l'appetito di vivere, e subito dopo l'appetito di vivere c'è l'appetito di nutrimento che viene immediatamente allo spirito, come se non ci fosse gente che mangia senza avere appetito e che ha fame, perché anche questo esiste, avere fame senza appetito. E allora? Allora, l'estensione della possibilità mi fu data un giorno con un grande veto che farò, ma io non sapevo proprio cosa fossero lo spazio, la possibilità, e non provavo il bisogno di pensarci, trattandosi di parole inventate per definire cose che non esistevano o non esistevano di fronte a un bisogno urgente e pressante, quello di sopprimere l'idea, e l'idea è il suo mito, e di far regnare al loro posto la manifestazione tonante di questa esplosiva necessità di dilatare il corpo della mia notte interiore, del nulla interiore del mio io, che è notte, nulla, opacità, ma che esplosiva affermazione che esista qualcosa a cui fare posto. Che esplosiva affermazione che esista qualcosa a cui fare posto. Il mio corpo è veramente ridurlo a questo gas puzzolente. Il mio corpo, dire che ho un corpo solo perché ho un gas puzzolente che si forma dentro di me, non so, ma so che lo spazio, il tempo, la dimensione, il divenire, il futuro, l'avvenire, l'essere, il non essere, l'io, il non io, non sono niente per me, ma c'è una cosa che è qualcosa, una sola cosa che sia qualcosa e che io sento da quello che vuole uscire, la presenza del dolore nel mio corpo, la presenza del dolore del mio corpo, questa presenza minacciosa che non si stanca mai del mio corpo, per quanto sia perturbato. No, alla negazione, e questo punto è quando mi si schiaccia, quando mi si schiaccia e mi si munge fino all'espulsione in me del nutrimento, del mio nutrimento e del suo latte. E che cos'è che resta questo mio soffocare? E io non so se è un'azione, ma schiacciarmi così di questioni fino all'assenza e all'annullamento della questione mi hanno schiacciato fino a soffocare in me l'idea di corpo e di essere un corpo. Ed è allora che ho sentito lo sceno e che ho petato di follia e d'eccesso e della rivolta del mio soffocare, e che mi si schiacciava perfino il corpo e fin dentro al mio corpo. Ed è allora che ho arso ogni cosa, perché nel mio corpo non mi si tocchi più. Conclusione. E a che vi è servita, Monsieur Artaud, questa trasmissione? A denunciare un certo numero di porcherie sociali ufficialmente riconosciute e raccomandate. Primo, questa emissione di sperma infantile fornito ingenuamente da bambini in vista di una fecondazione artificiale di feti che ancora devono nascere e che vedranno il giorno tra un secolo o più. Secondo, a denunciare presso questo stesso popolo americano che occupa tutta la superficie dell'antico continente indiano una resurrezione dell'imperialismo guerriero dell'antica America che fece abborrire il popolo indiano prima di Colombo da tutta la precedente umanità. Terzo, voi dite, Monsieur Artaud, cose veramente strane. Sì, io dico una cosa strana, che gli indiani prima di Colombo erano, contrariamente a quanto si può credere, un popolo stranamente civilizzato e che aveva infatti conosciuto una forma di civiltà basata sul principio esclusivo della crudeltà. Voi delirate, Monsieur Artaud, voi siete pazzo. Non sto delirando, non sono pazzo. Io vi dico che hanno reinventato i microbi per imporre una nuova idea di Dio. Hanno trovato un nuovo modo di far resuscitare Dio e prenderlo sul fatto della sua perniciosità virale, cioè di inchiodarlo sul cuore, là dove gli uomini lo preferiscono, sotto la forma di una sessualità malata, in questa sinistra apparenza di viscida crudeltà che assume nei momenti in cui ama titanizzare e far impazzire, come ora, l'umanità. Utilizza lo spirito di purezza di una coscienza rimasta candida come la mia per asfissiarla con tutte le false apparenze che spande universalmente negli spazi. Ed è così che Artole Momo può rivestire questa figura di allucinato. Che volete dire, Monsieur Artaud? Voglio dire che ho trovato il modo di finirla una volta per tutte con questa scimmia. E se nessuno crede più in Dio, tutti credono sempre più nell'uomo. Adesso bisogna finalmente decidersi a evirare l'uomo. Ma come sarebbe a dire? Da qualsiasi parte vi si prenda, voi siete pazzo, ma pazzo da legare. Facendolo stendere ancora una volta, ma l'ultima, sul tavolo di autopsia per rifargli l'anatomia. L'uomo è malato perché è formato male. Bisogna decidersi a metterlo al nudo per grattargli via questa piattola che lo rode a morte. Dio è con Dio i suoi organi, sì, i suoi organi, tutti i suoi organi, perché legatemi se volete, non esiste niente di più inutile di un organo. Quando gli avrete fatto un corpo senza organi, lo avrete liberato da tutti gli automatismi e restituito alla sua vera e immortale libertà. Allora reimparerà a ballare al rovescio come nel delirio del varietà. E questo rovescio sarà il suo vero diritto. Non più frutta, alberi, legumi, piante farmaceutiche o no, e di conseguenza non più alimenti, ma prodotti sintetici a sazietà, nei vapori, negli umori speciali dell'atmosfera, su particolari assi delle atmosfere ricavate di forza e per sintesi dalle resistenze di una natura che la guerra e che della guerra ha conosciuto solo la paura. Evviva la guerra! Non è così? Martedì 25 febbraio 1948. Pole, sono così triste e disperato, questo corpo mi fa male da tutte le parti, ma soprattutto ho la sensazione che la gente sia rimasta delusa dalla mia trasmissione. Là dove c'è la macchina c'è sempre l'abisso e il nulla, c'è sempre una mediazione tecnica che deforma e annienta ciò che si è fatto. Le critiche di M e di A sono ingiuste, ma nascono dai limiti del mezzo. Ecco perché non toccherò mai più la radio e mi consacrerò ormai esclusivamente al teatro, così come io lo concepisco, un teatro di sangue, un teatro che a ogni rappresentazione avrà fatto guadagnare corporalmente qualcosa sia a colui che recita, sia a chi vede recitare, del resto non si recita, si agisce, il teatro in realtà è la genesi della creazione, ciò si farà. Ho avuto una visione questo pomeriggio. Ho visto coloro che vogliono seguirmi e che non hanno ancora completamente un corpo, perché dei porci come quelli del ristorante di ieri sera mangiano troppo. C'è chi mangia troppo e altri come me, che non possono più mangiare senza sputare. La lettura di Per farla finita col giudizio di Dio di Antonin Artaud, interpretato da Oreste Scalzone. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con l'autore e attore Andrea Cosentino per presentare la rassegna di quattro suoi spettacoli dal titolo Maratona Cosentino. A Roma, Teatro Basilica, dal 31 marzo al 3 aprile 2022. Ben trovato! Grazie, ben ritrovato. Ce la presenti? Il titolo è abbastanza esplicito, oddio, il termine maratona l'ho preferito a personale, cose del genere, perché mi sembrava serioso, insomma, per fare un po' il verso a Mentana, che sono 30 giorni che fa maratone, adesso sulla guerra, prima elettorale, ma insomma sostanzialmente si tratta. Quando mi ha chiesto se avesse avuto voglia di fare un mio spettacolo da loro, insomma, che sono un teatro giovane, ma secondo me di tutto rilievo questi giorni, appunto, hanno appena fatto un grande artista che è Daniele Parisi, sta facendo proprio in questi giorni le sue repliche, insomma hanno una bellissima programmazione. Non avendo spettacoli nuovi da presentare a Roma, ho pensato appunto, piuttosto che ripresentare uno spettacolo vecchio, di sfidarmi in quattro giorni a fare quattro spettacoli diversi, quindi in qualche modo io in questi quattro giorni farò il mio repertorio degli ultimi 15 anni, ho lasciato fuori due o tre spettacoli perché insomma la settimana è corta e per me è anche la soddisfazione di dirmi, di raccontarmi di avere un repertorio, questo anche in qualche sommessa polemica contro un teatro che sempre più mi sembra spinto a produrre continuamente cose che nascono belle e brutte e scompaiono nel giro di due mesi, insomma. L'idea di essere un artista, sì, solitario mediamente, ma insomma che ha un repertorio che può spendersi, quindi diciamo in questo caso sono circa sei ore di spettacolo diluite in quattro giorni, insomma è una piccola hubris che mi concedo questa roba qua. Nell'ordine Telemomò, Primi passi sulla luna, Not here, not now e Cosechino Riff. Qualche parola su ognuno? L'ordine intanto è puramente cronologico, insomma, tanto per dargli un ordine. Telemo Mo è ormai un format più che uno spettacolo di più di 15 anni fa, è quello per il quale mi hanno dato questo UBU dopo tanti anni, ed è il mio classico pseudo cabarettistico, nel senso che questa televisione mimata con oggetti, parrucche, Barbie, eccetera, tutta questa paccottiglia che adesso è diventata uno standard del teatro pop postmoderno, insomma, che io ho iniziato a usare 15-20 anni fa, ed è mimare con la povertà di un teatrino di animazione artigianale la povertà linguistica della televisione. È un classico del teatro comico sentiniano, diciamo così, ed è uno spettacolo che si innova continuamente. Poi abbiamo Primi passi sulla Luna, che è uno spettacolo del 2010, poi il mio spettacolo più semplice, diciamo, da un punto di vista dell'impianto scenico, nel senso che sono io seduto con uno scatolone che racconto cose, ed è forse anche il mio spettacolo più complesso drammaturgicamente, anche a cui sono forse più affezionato perché è legato a qualcosa di personale. Comunque, diciamo, uno spettacolo che passa dal parlare sui complottismi, sul allunaggio, a una storia che riguarda mia figlia e malattie più o meno vere o presunte. Poi che abbiamo? Abbiamo Nottiano Now, che di nuovo adesso in qualche modo sulla cresta dell'onda, diciamo, è uno spettacolo di una dozzina d'anni fa, se ricordo bene, dove io, prendendo in giro Marina Abramovic, prima che diventasse così famosa come oggetto da prendere in giro, mettiamola così, in realtà faccio un discorso ovviamente comico, ponendo a confronto la pretesa di verità dell'artista performativo che si esibisce in una presunta nuda realtà con la verità della finzione del mio teatrino fatto di parrucchine, dei finti oggetti. Insomma, in qualche modo metto in confronto e contrapposizione il mondo della performatività dell'arte contemporanea con quello del clown, del teatro comico, che insomma con oggetti fittizi, in qualche modo ha anche lui da rivelare qualche verità. Infine abbiamo Cotechino Riff, in qualche modo è uno sviluppo degradato di Telemo Mo, diciamo è il mio spettacolo più recente, almeno a livello di assoli, anche se qui sono con un musicista che in questo caso sarà Lorenzo Lenne, un bravissimo batterista e strumentista. Cotechino Riff è una specie di roulette russa di gag sull'idiozia, è qualcosa che in qualche modo è una sperimentazione forse la più estrema che abbia mai fatto, perché è uno spettacolo veramente per metà improvvisato, dove io continuamente provoco, sempre utilizzando i miei oggettini pop, le mie paccottiglie, in qualche modo li faccio parlare, li faccio dialogare, ed è un modo, diciamo, comico e un po' punk in questo caso per parlare del rapporto tra attore e spettatore, in qualche modo anche per mettere in discussione, ma gioiosamente, giocosamente, come una festa, l'esistenza stessa del mio mestiere. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sui riferimenti web, una persona che ha la mia età e che quindi appunto inizia a fare le retrospettive non è proprio espertissimo. Quindi per quanto mi riguarda, io ho solo una cosa più tecnologica che ho, è la mia pagina a Facebook, quindi sono il profilo Facebook, quindi non so neanche se valga la pena di darlo. Teatro Basilica comunque, non sito. La rassegna di 4 spettacoli, Maratona Cosentino, questo è il titolo, a Roma, Teatro Basilica, dal 31 marzo al 3 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Andrea Cosentino. Alla prossima! Grazie, alla prossima, grazie a te e a tutti. Ciao! Con Jacopo Bezzi, regista dello spettacolo Le voci di Virginia Woolf, a Roma, spazio 18B, dal 31 marzo al 10 aprile 2022. Ben trovato. Grazie, grazie caro, ben trovati tutti. Parlaci di questo nuovo progetto. Intanto ti ringrazio moltissimo per lo spazio che sempre ci concedi. Questa volta è un anniversario importante della nascita di Virginia Woolf, grande scrittrice, saggista, insomma ha segnato un po' uno spartiacque nella storia della letteratura, non soltanto britannica ma europea ma anche mondiale, tradotta in tantissime lingue, e abbiamo voluto renderle omaggio con questo testo di Federico Malvaldi, che appunto ripercorre un po' quello che è stato l'ultimo periodo della sua esistenza, dove contrastata e malmenata dalle onde del fato, del destino e di ciò che in qualche modo lei ha sempre amato, cioè la letteratura, le grandi scrittrici dell'Ottocento, del Novecento, si ritrova da sola a fare i conti un po' con se stessa, con la sua coscienza, con i suoi amori, con la sua vita, e quindi una situazione particolare, una partita a carte, tre amiche, sembrerebbe semplicemente un gioco fra tre amiche intorno a un tavolo, in una stanza del faro di Godfrey Island, il faro dove lei da bambina si recava, no? Sull'isola tra gli scogli in vacanza, quindi un ricordo infantile. E però insomma queste due amiche che giocano a carte con lei in realtà ci rivederanno per altro. È un testo dove appunto queste voci sono in realtà due voci molto importanti. Lei fa un po' il suo percorso e certamente insomma è un percorso che non troverà una via di fuga, una via positiva. Sappiamo tutti insomma che la Wolf a 60 anni, mettendosi dei grossi sassi nelle tasche, si lascia trasportare dalla corrente del fiume, quindi se ne va ricordando un'Ofelia di un famoso quadro e ci lascia questa eredità particolare. In che rapporto è il testo di Federico Malvaldi con la scrittura della Wolf? Attratto molto dalla letteratura della Wolf, ovviamente dei brani, degli stralci, ha rielaborato ovviamente il pensiero e quello che può essere anche la sua stessa scrittura, come dici tu, però effettivamente l'ha reso in maniera molto teatrale, dinamico, anche se è uno stesso ambiente, ci troviamo in una stessa stanza, quindi insomma un ambiente sicuramente un po' claustrofobico, chiuso, senza via d'uscita, solo una finestra sul fondo che guarda il mare. Quindi insomma ha reso bene almeno uno o due aspetti della sua letteratura e certamente però c'è molto di suo e quindi è apprezzabile proprio il tentativo di costruire una drammaturgia su di lei, però non parlando espressamente di lei, sentendola attraverso le sue parole in alcuni punti e vedendola in relazione con queste altre due figure femminili. Come avete pensato l'allestimento? Abbiamo una scenografia semplice, composta da pochi elementi, un tavolo, una poltrona, un camino, questa finestra, qualche oggetto, le carte da gioco, il servizio per il tè, una bottiglia di whisky e tutto il resto l'abbiamo costruito qui nel nostro spazio 18B attraverso la carta e sfruttando una sorta di così suggestione alla Dogville di Lars von Trier, quindi alcuni elementi ci sono e altri sono disegnati sugli specchi a terra, quindi insomma anche sorprendente, non avevamo mai sfruttato il nostro piccolo spazio in questo modo e devo dire che l'effetto almeno per il momento è molto efficace, quindi anche con le luci che ci farà il nostro Ferrante Cavazzuti sarà sicuramente molto suggestivo nella sua semplicità. E le attrici? Stanno lavorando molto, si stanno molto impegnando, a partire dalla nostra Monica Belardinelli, Sara Meoni, che vediamo anche nel nostro front office qui al 18B, in questo caso la vedremo in scena come già è successo precedentemente, e Veronica Rivolta, che è Virginia Woolf. Stanno lavorando molto bene perché è un ensemble a tre che deve essere ben costruito, ben digerito, e quindi tra partite a carte, rimbrotti, battibecchi, litigi, ricordi, insomma è uno spettacolo che dura un'oretta ma è bello denso. Io dico, mi meraviglio sempre che sia alla fine così breve perché in realtà è molto intenso, quindi entrando all'interno della vicenda ne rimane quasi avviluppati e quindi si sta con loro, si entra quasi nel loro gioco a carte a tavolino e si sta alle loro ragioni, ognuna porta un messaggio importante, una storia importante che alla fine saranno le stesse storie insomma della protagonista, cioè di Virginia Woolf, quindi intorno a tutto questo si dipanano le tematiche che sono state sempre a cuore a lei per tutta la vita e che l'hanno fatta riflettere e poi appunto decidere per questa fine prematura e consapevole. Stanno lavorando molto bene, sono veramente interessanti da vedere insieme. Ci lasci tutti i riferimenti web? Dal 31 marzo al 10 aprile, dal giovedì al sabato alle ore 20:30, domenica ore 18, al Teatro Spazio 18B, a Rosa dei Monti Garibaldi 18B, zona Garbatella a Roma. Si può prenotare tramite WhatsApp al 333-3305794 o telefonando allo 06-9259-4210 o scrivendo a biglietteria@spazio18b.com. La prenotazione ovviamente è obbligatoria, avendo il nostro spazio un numero ridotto di posti. Lo spettacolo Le voci di Virginia Woolf a Roma, spazio 18B, dal 31 marzo al 10 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Jacopo Bezzi. A presto! Grazie a te Federico, a presto, vi aspettiamo! Con Marco Martinelli del Teatro delle Albe, regista del film Fedeli d'amore su Rai Play. Ben trovato! Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno, ci sarà anche una rassegna Visioni d'amore, il cinema eretico di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari su Rai 3, a fuori orario cose mai viste, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26. Partiamo dal film, Fedeli d'amore, ce lo presenti? Parte da uno spettacolo nostro del 2018, ma fa un'operazione singolare, direi, nel senso che teniamo dello spettacolo esclusivamente tutta la partitura sonora, le voci di Ermanna e la musica elettroacustica di Luigi Ceccarelli. Quella rimane tutta questa banda. Su quella banda io ho riscritto completamente le immagini. Quindi le immagini che si vedono in Fedeli d'amore al cinema, non ce n'è una che fosse nello spettacolo precedente, che era fondamentalmente un concerto con Ermanna al centro, basato appunto sulla sua voce, sulle sue metamorfosi vocali. E il cinema invece mi ha permesso di immaginarmi la stanzetta dove Dante muore, i fedeli d'amore che saltano, giovani e dionisiaci e cantano l'amore in un mondo dominato dalla guerra, perché questo è uno dei centri proprio della drammaturgia di Fedeli d'amore e così via. Raccontiamo anche cos'era questo spettacolo. Era un poemetto che raccontava la morte di Dante Alighieri a Ravenna nel settembre del 1321. Dante morì di febbre malarica dopo un viaggio a Venezia e questo a me Ermanna ci ha sempre colpito, ci ha sempre emozionato pensare che questo grande poeta che aveva appena finito di scrivere Il Paradiso e quindi di cantare l'immortalità si trova invece nel momento del trapasso in una sorta di delirio mentale, perché la febbre malarica è potentissima e davvero mette in disequilibrio la nostra ragione. E allora ci siamo chiesti come è morto Dante, cioè che cosa è avvenuto in quel momento. E il poemetto si snodava attraverso una serie di visioni che erano ora la mente di Dante nel 200, ora la nostra mente, la nostra condizione, di noi che viviamo questo tempo che non è, ahimè, molto differente dalla violenza, dalle guerre sanguinose in cui era vissuto anche Dante Alighieri. E quindi c'è proprio un cortocircuito tra i secoli per raccontare la nostra contemporaneità. Dandogli nuove immagini, come le hai create? Il set centrale del film è questo Molino Lovatelli, che è una struttura Ravenna proprio del 1200. Tra l'altro apparteneva anche ai da Polenta, quindi i signori di Ravenna che ospitavano Dante. E possiamo immaginarci e pensare che Dante sia passato da lì, che quelle pietre ancora respirano la presenza di Dante. E l'abbiamo, grazie davvero alla generosità dei suoi proprietari, che ci hanno permesso, Leonardo Spadoni e Beatrice Bassi, di trasformarlo. E quindi di poter dipingere delle pareti d'oro, in altre fare delle scritte, dei disegni, insomma è diventato davvero il set principale in cui ambientare la cameretta con la morte di Dante Alighieri e tutti i suoi allievi intellettuali e signori della città accanto a lui. E poi siamo andati a girare sulle spiagge della nostra Marina di Ravenna, nel delta del Po e anche in diverse chiese e luoghi, cripte della nostra città. Quindi è anche un canto per Ravenna. Non solo, al di là della voce di Ermanna, che è l'ossatura principale del film, ci sono dentro un centinaio di ravennati che partecipano, cittadini che io ho chiamato a incarnare questa o quella figura. E quindi è stato anche questo film una tappa di questo cantiere Dante che portiamo avanti da anni e che ormai ha coinvolto davvero migliaia e migliaia di cittadini ravennati. L'omaggio di Rai 3 ce lo presenti? Abbiamo passato tante notti su Fuori Orario a vedere Parajanov, per esempio, un regista che per noi è stato una grande scoperta, quindi dobbiamo tanta riconoscenza a Enrico Ghezzi e al suo Fuori Orario e a chi oggi, come Fulvio Baglivi, porta avanti questo testimone. E lì, appunto, per tutta la notte ci saranno i miei tre film danteschi, e quindi non solo Fedeli d'amore, ma anche The Sky of Archibera, che ho girato nel più grande Slam di Nairobi, e Ulisse 26 sul 26esimo canto dell'Inferno. E in più anche il mio primo film, quello che ha inaugurato nel 17 questa mia nuova storia, questa mia nuova avventura di regista di cinema, che è Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi sulla leader birmana. Un film che, scritto e diretto nel 17, oggi ahimè, ha riacquistato una tragica consonanza col presente, perché Aung San Suu Kyi è ritornata agli arresti. Noi giustamente oggi guardiamo l'Ucraina, guardiamo la guerra, ma le guerre nel mondo, le dittature feroci, la violenza contro gli esseri umani è ovunque, e la Birmania è risprofondata nell'incubo da quando c'è stato il golpe dei militari. Per tutte le informazioni fa fede il sito internet del Teatro delle Albe. Certo, e poi dico un'ultima cosa, Federico, che tra l'altro i film saranno visibili per una settimana intera su RaiPlay, quindi se qualcuno non ce la fa a passare la notte può rivederseli. Il film Fedeli d'amore su RaiPlay. Marco, un abbraccio e alla prossima. Grazie, grazie, un abbraccio e buon lavoro per tutto. Eccoci all'agenda della settimana per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali. Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Settimana teatrale che, insomma, molte piccole cose spezzettate che però vale la pena ricordare, quindi andiamo subito a muoverci. Intanto è partito un progetto molto bello dedicato alla danza, firmato da Valentina Marini, con appunto la stagione del Palladium di danza diretta appunto da Spellbound Contemporary Ballet, e la prima edizione si chiama Orbita, è iniziato il 25 marzo. Questo fine settimana andiamo a vedere la compagnia di Enzo Cosi, uno dei coreografi e registi italiani più autorevoli al mondo. Ci sono tre progetti tra performance e installazione dal titolo Il corpo originario, sistemi polifonici installativi. Il primo di questi pezzi si chiama Off Label, si immerge nella transessualità dei corpi per indagare il percorso delle persone in transito e comprendere un po', insomma, la modalità, reinventarla per abitare lo spazio fisico, urbano e sociale, quindi un lavoro di metaforizzazione forse del passaggio, del transito. Poi c'è Visione africana, in cui Cosi mi riporta alla luce i fantasmi dell'Africa, dalla schiavitù al colonialismo passato e recente, cercando di rievocare, diciamo, questa forza ancestrale del continente africano, spesso violentato da più generazioni, ahimè. Poi il terzo, la terza parte del progetto si chiama The Respirator ed è un'opera che si confronta con le angosce date dall'esperienza pandemica e cerca di mettere in relazione una voce neutra che legge il referto medico di una paziente attaccato al respiratore artificiale e un corpo invece iperperformante, quindi c'è un cortocircuito, no, tra le due atmosfere, quella di morte e quella di vita. E segnalo che il 3 aprile sul palco del Teatro Palladium io e Enzo Cosi, non lo dico, è anche un po' una cosa per diciamolo, insomma, cercherò di dialogare con Enzo Cosini su Pierpaolo Pasolini e con un progetto speciale per il centenario della nascita del poeta, appunto 1922-2022, che si chiama Elogio alla barbarie, e per l'occasione ci sarà una creazione del 2003 che il coreografo Enzo Cosini ha riallestito, si chiama Bastard Sunday, e un po' cerca di rievocare e amplificare la visione poetica pasoliniana. E quindi ecco, questo Bastard Sunday sarà un po' l'occasione di dialogo. Quindi per quanto riguarda Orbita, per il momento lo chiudiamo qua, ma la stagione va avanti fino a maggio, quindi ne parleremo ancora e ancora. Poi andiamo a Teatro allo Studio, perché L'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello torna a Roma, torna in realtà, viene a Roma per la prima volta, perché la parte precedente è saltata per Covid, quindi viene riprogrammato, la regia di Francesco Zecca, ma l'interpretazione è quella di Lucrezia Lante della Rovere, dal 31 marzo fino al 10 aprile sarà appunto al Teatro Argo Studio. Per ciò che riguarda invece l'altrove teatro studio, mi sono scordata, 2 e 3 aprile arriva questo spettacolo con questo titolo, il testo e i brani originali musicali sono di Ottavia Bianchi e la direzione, la regia è quella di Giorgio Latini, che sarà con lei anche in scena insieme anche a Giacomo Ronconi alla chitarra. Se la notte è il momento del riposo e dell'abbandono felice, per Dario è il momento del lavoro di scrittore seriale e solitario, con le sue abitudini, le sue paure, nella sua ossessione lavora il suo romanzo. Cosa? accadrà, cosa accadrà per sconvolgere questo suo equilibrio, e questo lo andremo a scoprire appunto all'Altrove Teatro Studio 2 e 3 aprile. Al Teatro Lo Spazio invece andiamo e ci mettiamo in attesa, perché dal 31 marzo fino al 3 aprile questa settimana con la regia di Francesco Polizzi va in scena L'aspettando Godot di Samuel Beckett. Non siamo per caso nella località chiamata Il Palco, si chiede. Due clown vagabondi di Beckett si ritrovano ad aspettare questo fantasmatico Godot in uno scalcinato palco di cabaret alle dipendenze del potente Pozzo. Questa rilettura di Brecht sarà in scena al Teatro Lo Spazio, quindi molto interessante l'idea e il pensiero attorno. Andremo a vedere dal 31 marzo al 3 aprile Aspettando Godot al Teatro Lo Spazio. Ne abbiamo già parlato, mi fa piacere poterlo dire, perché insomma sono tra quelli che l'ha visto di più probabilmente negli anni. Andrea Cosentino al Teatro Basilica, con una sorta di Cosentineide, potremmo dirla così, Maratona Cosentino, dal 31 marzo al 3 aprile sono ben 4 gli spettacoli di Andrea Cosentino che abbiamo visto insomma negli ultimi 15 anni di carriera, e sono tra i suoi più celebri: Telemomo, 31 marzo, 1 aprile, I primi passi sulla luna, Not Here, Not Now, dedicato alla performance, come adesso torna di moda, di Marina Abramovic, e in genere proprio al concetto di arte contemporanea, e Cotechino Riff, che invece il 3 aprile chiuderà questo quartetto di spettacoli al Teatro Basilica, quindi da non perdere Andrea Cosentino per questi giorni, questa settimana al Teatro Basilica. Teatro Belli, inedito Venere in pelliccia, la regia di Fabrizio Catalano, 1-3 aprile, questo lavoro in cui si esplora il meccanismo del metateatro e del rapporto tra realtà e finzione. C'è Thomas, un regista esordiente, alla ricerca di un'attrice che interpreta in teatro Wanda, protagonista di un classico della letteratura eroica, Venere in pelliccia. Ci sono provini deludenti, ma poi entra una donna. Cosa succederà? E questo ce lo scopriremo al Teatro Belli dal 1 al 3 aprile con la regia di Fabrizio Catalano. Venere in pelliccia. Teatro Parioli, invece, perché 31 marzo sempre, questa sera, quindi dal 31 marzo, che se non sbaglio è giovedì, esattamente, dopodomani, andremo a vedere dal 31 marzo al 10 di aprile Enzo De Caro, che arriva a Roma con Non è vero ma ci credo, la regia di Leo Muscato, ma il testo è di Peppino De Filippo, quindi un grande ritorno alla commedia napoletana, che appunto spesso interpretata da Luigi De Filippo, morto ormai 4 anni fa, e che insomma diventerà anche una serata speciale in suo onore. Questo al Teatro Parioli per appunto Enzo De Caro fino al 10 aprile, dal 31 marzo. Invece al Teatro della Fortezza Est andremo a vedere Mi manca Van Gogh di e con Francesca Astrei, un monologo che porta in scena una storia vera, una storia di confine tra privato e pubblico, tra l'avere un'urgenza e l'essere matti. Di fronte all'esposizione di un quadro di Van Gogh, la biografia dell'artista si fonde con la vicenda di una poco più che ventenne, rivelando così un'infinità di punti di congiunzione. Questo è il contesto, anzi il contatto che Francesca Astrei cerca con Van Gogh. Mi manca Van Gogh, 31 marzo, 2 aprile al Teatro Fortezza Est. È già in scena da qualche giorno, ma io lo ricordo perché è importante, fino al 7 aprile, Biancaneve, Le ombre nello specchio, tratto dalla traduzione delle fiabe dei fratelli Grimm, fatta da Antonio Gramsci, la regia di Fabrizio Pallara, con in scena, con la cura drammaturgica anche di Valerio Malorni, che sarà in scena insieme a Marco Guerrera e Camilla Chiozza, fino al 7 aprile per questo spettacolo, che è sia per adulti e bambini dai 7 anni in su. Quindi è una bellissima fiaba quella di Biancaneve, ma soprattutto è una traduzione nuova, anzi forse la traduzione originaria, che aveva il titolo Nevina, con l'obiettivo di esaltarla ed evidenziare il senso profondo del conflitto fra generazioni nel passaggio di testimone di madre in figlia. Questo è il tema della Biancaneve, Le ombre nello specchio, che sarà in scena al Teatro Torlonia fino al 7 aprile. Teatro Ambra Iovinelli invece, per Sergio Dubini, che porta in scena Ristrutturazione, un testo scritto dallo stesso Lubini con Carla Cavallucci ed un racconto desiderante in forma confidenziale di una coppia alle prese con la ristrutturazione di un appartamento, e ci sarà in scena molta musica eseguita dalla musica dal gruppo Musica da Ripostiglio fino al 10 aprile per questo lavoro di Sergio Lubini a partire dal 29, ovvero sia questa sera. Invece verso weekend, primo 1-2-3 aprile, all'Angelo Mai, una sorta di festa nel progetto Non Normale Non Rassicurante, progetto dedicato a Kerry Churchill, curato da Paolo Bono, e l'Angelo Mai in tutto porta in scena questo Kerry Churchill remix, 3 giorni con Kerry Churchill. Ci saranno lavori, presentazioni di libri, incontri, letture, insomma, un sacco di belle cose dedicate a Kerry Churchill, anche concerti, party, qualunque cosa, insomma, effettivamente. Quindi tutto culminerà con tanto un'assemblea di sabato 2 aprile dedicata ai temi, ma non solo, e poi con appunto lo spettacolo non abbastanza ossigeno di Kerry Churchill con Silvia Refanti, Silvio Impegnoso e Marco Cavalco. In regia è di Giorgina P, quindi attenzione, andiamo a vedere un po' di lavori attorno a Kerry Churchill nei giorni 1-2-3 aprile all'Angelo Mai. Al teatro Quarticciolo, perché 1-2 aprile andremo a vedere Powered by Ref, cioè Romeo Rock Festival, lo studio di Anatomia di un fiore, il tutoraggio della compagnia Bartolini Baronio, ma il progetto è di Valeria Bandia e Jonas Aregai. Cosa succede quando cogli un fiore? Cogliere un fiore è un gesto pratico, ma anche violento. Chi coglie un fiore è responsabile del suo strappo e del suo viaggio, della sua destinazione. Portare per la prima volta un fiore sulla tomba di un padre. Questo è il progetto di Valeria Vandia e Jonas Aregai, che sarà in scena al Teatro Quarticciolo 1 e 2 aprile. Stesso teatro, ma il 3 aprile, il pomeriggio alle 17, uno spettacolo dedicato alle nuove generazioni della baracca Testoni, di una compagnia bolognese molto famosa e nota nell'ambito del teatro ragazzi, si chiama Spot ed è un lavoro con Andrea Buzzetti, anche curatore del progetto, insieme a Valeria Frabetti. Nel giallo sono il sole, nel blu sono il mare, nell'azzurro sono cielo, nel rosso sono fuoco e divento rosso quando mi emoziono. Sono Spot e so raccontare. Spot è un faro teatrale che illumina e si esprime disegnando forme e colori in movimento. Spot si racconterà per noi il 3 aprile alle ore 17 al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ultimissime due cose. Teatro Tor Bella Monaca, mercoledì 30 marzo, sabato 2 aprile, il testo di Sergio Pierattini, in scena c'è Massimo Reale, la regia di Emanuela Mandracchia, lo spettacolo si chiama L'Uomo Sottile, un monologo sulla menzogna e sulla colpa. Siamo nel mondo del Palio di Siena e dei suoi protagonisti, i Fantini, venerati e odiati. I Fantini del Palio sono fedeli alle contrade che dovrebbero invece servire lealmente, e sono pronti a scambiarsi colpi violenti e manovre spericolate per favorire chi offre loro più soldi. Questo è il contesto in cui andremo a vedere appunto Massimo Reale al Teatro Tor Bella Monaca, mentre al Teatro Quirino il Bartleby, lo scrivano di Melville, e con il volto di Leo Gullotta se ne andrà in scena da stasera fino al 3 di aprile. L'autore della drammaturgia è Francesco Niccolini, la regia è di Emanuele Gamba. Siamo a Wall Street in un ufficio e c'è una giornata normale, lo studio di un avvocato, un uomo che lavora lì a cui viene affidato un compito, preferisce non farlo, si rifiuta di dire che non è un compito adatto a lui. Non lo fa però urlando, lo fa semplicemente dicendo che preferisce di no. Qui comincia la vicenda del scrivano Bartleby, scritto nell'Ottocento, ma che molto, molto parlava dell'uomo dell'intero Novecento. Questo è tutto per questa settimana a teatro e buon pomeriggio a tutti. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.